9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon 21 di febbraio, oggi è San Pier Damiani. So che forse alcuni pensano, ma come, c'è stato l'accordo nella notte per la seconda tranche di alla Grecia, 130 miliardi alla Grecia, levate questo DORS. No, ragazzi, noi DORS li teniamo perché, come si è capito, è stato agevole per chi per la prima volta ha potuto seguire un Eurovertice in Twitter, minuto per minuto si capiva quanto ampie fosse la forbice dei paesi europei in merito a come procedere ancora nei confronti della Grecia, non dargli 130 miliardi, mettere un fondo autonomo, vincolare, darglielo di 3 mesi in 3 mesi, quindi è vero, stanotte c'è stato l'euroaccordo, non possiamo che essere di questo molto contenti, però tutti i particolari del salvataggio la disciplina aggiuntiva a cui la Grecia sarà sottoposta, è stato evidente oltretutto ieri che nessuno, né della Troica né dei paesi membri, convergeva su quale sarebbe stato il debito pubblico che la Grecia avrà di qua a 10 anni, nessuno è in grado di saperlo, ma 120, 130, 140%. Ecco, questo scenario è tale da non consentire a nessuno se non due cose. La prima è quella, un sospiro di sollievo, ed è ovvio ed è giusto sottolinearlo perché l'accordo c'è stato. La seconda però è che non è con questi sistemi che i mercati riescono a ottenere la risposta di un meccanismo adeguatamente finanziato e automaticamente cooperativo in grado di scattare per il sostegno agli eurodeboli. Il Portogallo ha già cominciato a dire immediatamente ieri sera stessa che ha bisogno di più tempo rispetto alla Troica. Nel manifesto per la crescita, che è stato un grande contributo dato dal governo Monti e che chiede all'Unione Europea di piantarla, di avere mercati dei beni e dei servizi separati, io considero questo punto fondamentale. L'euro non può tenere se noi non unifichiamo i mercati dei beni e dei servizi, che restano con tariffe e prezzi amministrati dalle politiche nazionali e quindi con curve di costo non intercomunicanti. Ecco, questa fondamentale lettera in 8 punti però non è stata firmata per esempio da Francia e Germania, cioè dai paesi leader. Perché? Perché la Germania da questo punto di vista è molto conservatrice nell'offerta dei servizi e nella regolamentazione del mercato interno, è in fondo alla lista dei paesi europei, anche questo non è un buon segnale. Ma detto questo, veniamo al punto della trasmissione di oggi, che è una trasmissione nella quale indichiamo per la prima volta, senza dubbi questa volta, un obiettivo chiaro a tutti voi che siete in ascolto, se siete d'accordo, nella convinzione di non venir meno al nostro dovere informativo, che è una missione specifica di Radio 24, una radio, come sapete, che non ha molti uguali. Noi siamo una radio di approfondimento giornalistico, certo poca musica, poco intrattenimento, ma coerenti alla missione del nostro gruppo, tentiamo di informarvi e di venire dietro anche alle esigenze, di interpretare le esigenze della parte produttiva del paese, innanzitutto delle imprese, di chi crede in se stesso, di chi scommette su se stesso, si tira sulle maniche per primo. Ed è per questo che, ripeto, senza fare demagogia, ma oggi abbiamo deciso di fare una puntata nella quale vi chiediamo di aderire a una protesta collettiva, civile, di massa. Ed è relativa alla richiesta che migliaia e migliaia di voi che siete in ascolto state ricevendo dall'Agenzia delle Entrate di pagare il canone RAI per ogni singolo schermo di PC che avete nella vostra piccola azienda, impresa artigiana, commerciale, studio professionale, medico, veterinario, radiologico. Ecco, per la prima volta stanno arrivando migliaia e migliaia di richieste di pagamento a cittadini che già pagano il canone RAI per i PC, e già questo sarebbe discutibile per me, e gli schermi che hanno a casa. E a questo lo Stato ha aggiunto, senza una nuova legge, senza un'interpretazione autentica, nuova, di riferimento, perché si tratta dell'applicazione di un regio decreto che è quello del 21 febbraio 1938 e il numero 246, e all'articolo 1 quel regio decreto del 38 prevede che chiunque detenga uno o più apparecchi, atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbogamento, giuste le norme di cui è il presente decreto. Sapete perfettamente che in Italia, ne abbiamo detto mille volte, il canone RAI in realtà vigente nel nostro ordinamento sotto forma appunto di tassa di possesso, senza una nuova interpretazione di questa vecchissima norma, perché molte volte è stato chiesto al Tesoro in interpelli avanzati dalle diverse associazioni dei contribuenti, dalle diverse associazioni di impresa, dalle associazioni professionali, eccetera eccetera, il Tesoro mai aveva dato una linea inequivoca di interpretazione. In assenza di tutto questo stanno arrivando migliaia di richieste. C'è chi pensa che può arrivare fino a 1 miliardo addirittura, insomma saranno sicuramente diverse centinaia di milioni che potrebbero essere riscosse, perché naturalmente sono migliaia e migliaia e migliaia gli schermi utilizzati negli studi professionali, nelle aziende per svolgere il lavoro e non certo per guardare la televisione e la televisione della RAI. A questo la mia personale linea è che bisogna opporre una civile ma compatta resistenza di massa. Migliaia di interpelli comuni alle agenzie delle entrate, migliaia di ferme civilissimi, argomentate collettivamente dichiarazioni in base alle quali un balzello improprio come questo, poiché nessuno può pensare che nelle aziende si perda tempo a guardare la televisione invece che a lavorare, deve ottenere, e questo è il nostro auspicio, per la prima volta una risposta che veda tutte le associazioni di categoria di rappresentanza unite nel nostro interesse, che è quello di essere contribuenti civili, rispettosi della legge, ma anche fermi, determinati a chiedere che lo Stato non si permetta di credere che può a sé applicare la simmetria non della libertà ma del sopruso. Ecco, di fronte a questo noi oggi diamo la voce a tutti coloro che protestano, perché sono tantissime le associazioni che si sono messe in campo, per vedere insieme a loro e insieme a voi, se siete d'accordo, se questa linea possa sembrare di comune convergenza e se intorno a questo costruire tutti insieme con fermezza, con dignità, senza alzare troppo la voce, una linea anche di civiltà più generale, tutti adempiere il proprio dovere fiscale, ma tutti anche convinti che cose improprie, incostituzionali, come l'abuso di diritto che lo Stato crede di poter applicare, l'abbiamo ricordato nella sentenza di ieri della Corte di Cassazione, solo nei confronti del cittadino, nei confronti dello Stato e non anche viceversa, sono cose sulle quali bisogna mettere dei picchetti per terra. Bisogna delimitare il campo del diritto è un campo nel quale l'obbligo di fiducia e di rispetto delle norme deve essere reciproco. Uno Stato che improvvisamente decide che una norma fino a ieri applicata in un modo si applica in tutt'altro modo e inizia a chiedere a tutti, per cose che nulla hanno a che vedere con il canone RAI, sui posti di lavoro quando c'è già chi lo paga a casa, è uno Stato assetato, certo, ma che non è in grado di dare più una regola al rispetto della legge. Allora, iniziamo a vedere le voci di chi è coinvolto già da giorni nell'organizzazione della raccolta, innanzitutto della protesta di chi è iscritto alle proprie associazioni, e abbiamo con noi, per cominciare, Marco Melosi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Buongiorno Melosi. Buongiorno dottor Giannini e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottore, lei è stato direi molto esaustivo, credo che ci sia veramente poco da aggiungere, praticamente ha fatto un sunto di tutte le motivazioni per cui anche i medici veterinari ovviamente si trovano nella posizione che lei ha espresso. È ovvio, ormai anche nelle nostre strutture stanno arrivando a pioggia i bollettini per il pagamento, devo dire che oltretutto con 15 giorni di ritardo rispetto a quello che sarebbe stato il naturale limite per il pagamento, che era il 31 gennaio, quindi oltretutto anche in ritardo, e come ha detto lei il computer, il PC negli studi veterinari è utilizzato per la gestione delle cartelle cliniche, per la gestione della fatturazione e per l'aggiornamento online in relazione all'ECM. Quindi veramente siamo assolutamente in linea con quanto lei ha detto e ci auguriamo che questa protesta possa in qualche modo dare una risposta, che l'aspettiamo in modo particolare da Corrado Passera, dal Ministro, e quindi vediamo un attimino l'evoluzione delle cose. Certo, è un po' singolare che giustamente, questo adesso riguarda i veterinari ma riguarda tutti i medici, noi stiamo vivendo in un mondo in cui la digitalizzazione dei servizi sanitari e di assistenza anche sanitaria naturalmente agli animali che ci sono cari deve essere la frontiera nuova dell'organizzazione dei servizi. Uno dei capitoli proprio dell'agenda digitale nazionale riguarda esattamente il passaggio al digitale delle diverse procedure per il sistema sanitario, e naturalmente quindi questo implica, come è giusto, che il digitale prenda sempre più piede negli studi professionali, e a quel punto automaticamente si applica questa nuova interpretazione per la quale su questi schermi si paga il canone RAI. Voi vi siete già posti il problema, Melosi, di qual è la forma intorno alla quale cristallizzare la protesta, se fare degli interpelli, valutare con vostri legali, perché secondo me più associazioni valuteranno insieme qual è la forma legale dei diversi stadi della protesta, perché magari ci ascoltano e automaticamente correggono la cosa. Se poi non dovesse avvenire, invece bisogna immaginare un processo a più stadi. Voi siete favorevoli a concordare anche con altri la forma di protesta per i vostri associati? Certo, assolutamente. Tra l'altro mi ero dimenticato che l'utilizzo, come diceva lei, dei mezzi come appunto una linea obbligatoria per la quale già paghiamo una tassa ai gestori delle varie linee, è obbligatoria per quanto riguarda l'attivazione della casella di posta elettronica, per esempio, che è un obbligo di legge oggi. Per quanto riguarda alla sua domanda specifica, noi come ANVI abbiamo proposto alcune interpellazioni parlamentari, e inoltre abbiamo scritto anche all'AGCOM, perché siamo in attesa appunto di risposte precise, e ovviamente ci uniamo a tutti gli altri, e in mancanza di risposte precise certo chiediamo ai nostri associati di attendere e di vedere un attimino l'evoluzione appunto di questa problematica. Certo, io ringrazio Melosi. È ovvio che io per primo mi rendo conto che dire a chi si trova in questa situazione, a chi ha un'impresa, un artigiano, un commerciante, un professionista, un medico, un veterinario, non pagate, mi rendo conto che per questo solo fatto divento responsabile di una istigazione alla violazione di una norma. Questo è un punto delicato, me ne rendo molto conto, ne sono molto consapevole. Io non maneggio con eccesso di disinvoltura, né per demagogia, né per conto mio, e tantomeno implicando anche la responsabilità editoriale di questa radio, categorie così delicate come l'istigazione alla disobbedienza civile. Sono molto consapevole della delicatezza in un consorzio civile collettivo che deve essere ordinato e fondato sul rispetto della legge, che questa è una delle frontiere ultime, più estreme da prendere in considerazione. Tuttavia, quando di volta in volta, sempre più spesso, l'abuso asimmetrico dello Stato nel pretendere l'espansione, nell'attuare l'espansione delle sue pretese impositive, si esercita nella vita di tutti noi tutti i giorni, bisognerà pure iniziare a porsi il problema. E questo è un caso classico, voglio dire, di una norma che è rimasta quella che era, di fronte alla quale non una novella legislativa è intervenuta, non una interpretazione autentica comunicata ex ante da parte dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero delle Finanze o da parte di un produttore di fonte normativa, si è verificato nel tempo, arrivano direttamente le richieste di pagamento. Allora, di fronte a questo, la mia opinione è che sia opportuno procedere a tre diverse cose: forme di protesta il più possibile collettive e organizzate in forma di rappresentanza, 1, 2, coordinamento di questa protesta in vista dei successivi diversi livelli della sua espressione in termini giuridici, perché si tratta di valutare e più è valutato collettivamente la possibilità di A. innanzitutto non pagare nei termini, B. procedere a interpelli, C. esaminare le diverse forme di impugnativa, più questo fenomeno sarà collettivo e di massa, più produrrà l'effetto a cui può, e secondo me, mi auguro, debba mirare, cioè quello di porre una questione civilmente ma fermamente, poiché il legislatore, il governo e il Parlamento intervengano stoppando questa spirale che di volta in volta diventa sempre più inarrestabile. Naturalmente però questa è la mia personalissima opinione e sono prontissimo ad arrendermi di fronte al fatto che chi fa rappresentanza nelle categorie che vengono vessate con queste richieste ci dica, caro Giannino, sì, un conto è dirlo dai microfoni di Radio 24 come fai tu, altro conto è che noi possiamo dire ai nostri associati, davvero facciamo così, perché poi dobbiamo essere consapevoli di quello che rischiano, e mi rendo perfettamente conto di questo. Allora, adesso è con noi Giuseppe Dell'Aquila, che è il responsabile dell'ufficio legislativo di Confesercenti. Io lo ringrazio, lo saluto, chiedo con i loro iscritti e associati, di fronte a questa richiesta, come è nato dal basso a casa loro la sensazione che bisogna in qualche maniera organizzarsi, e che cosa secondo loro, dal punto di vista giuridico e associativo, è possibile fare, e che cosa sono disposti anche a fare con le altre associazioni. Buongiorno Dell'Aquila. Buongiorno, buongiorno. Ah, io ho ascoltato già una parte del vostro dibattito e ho chiaramente trovato esatte le ultime affermazioni, soprattutto per quanto riguarda la difficoltà, se non impossibilità, di spingere all'insubordinazione nel pagamento di questa imposta. È una cosa che non abbiamo in effetti ancora fatto. Probabilmente non sarà questa la linea, stiamo temporeggiando in questo momento, però il nostro atteggiamento nei confronti della pretesa assurda da parte della RAI è stato molto forte, come Confesercenti e nel contesto di Rete Impresa Italia, che in questo momento la nostra associazione presiede. E noi avevamo, diciamo dal basso, come chiedeva lei, recepito la possibilità che qualcosa accadesse quando nel decreto Salva Italia nel mese di dicembre è stato inserito l'articolo 17 che ha previsto l'obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi i riferimenti all'abbonamento speciale che le imprese devono versare, ma pensavamo in quel momento semplicemente al discorso di una rilevazione dovuta del pagamento del canone da parte di chi detiene apparecchi atti a ricevere il segnale radiotelevisivo, quindi i televisori per intendersi. Diverso è stato quello che è accaduto dopo, quando dalle nostre imprese sono arrivati preoccupanti segnali di malcontento dovuti alle migliaia di lettere che la RAI sta spedendo, nelle quali si fa riferimento non alla detenzione dell'apparecchio atto a ricevere il segnale, ma di tutti gli apparecchi adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo. Con una diciamo specificazione ulteriore, che è quella dei computer. Ora, su quest'ultimo aspetto dei computer, fra l'altro, si apre una strana finestra. È di ieri sera una comunicazione che ci è stata fatta qui ai nostri uffici, secondo cui la pretesa della RAI non sarebbe riferita, ma questa è una congettura ovviamente perché siamo in attesa di risposte ufficiali da parte della RAI, non sarebbe riferita a tutti i computer collegati in rete, bensì, come nella lettera viene scritto, ma sembrava all'inizio leggendola semplicemente una possibile specificazione della connessione in rete, bensì a quei computer che sono collegati in una particolare rete denominata Digital Signage. Sarebbe sostanzialmente la rete dei computer che vengono utilizzati normalmente in alcune tipologie di esercizi come le farmacie, le tabaccherie, in cui attraverso questi video quegli esercizi hanno la possibilità di diffondere promozioni, pubblicità e video attinenti all'attività svolta. In ogni caso, se anche così fosse, ma ripeto, non c'è stata una comunicazione ufficiale da parte della RAI, anzi la RAI nei messaggi che sta mandando in TV sembra spingere in tutt'altro senso, anche se così fosse, questo convincerebbe in ogni caso del fatto che non può essere la RAI a dare un'interpretazione positiva della norma del 38 che prevedeva il pagamento del canone speciale da parte di chi detiene apparecchi atti o adattabili. È assurdo. Noi vorremmo che questa interpretazione venisse data da un livello più alto. No, ma poi soprattutto, perdoni, in termini ordinamentali, l'interpretazione sull'ambito di applicazione di una fonte normativa può essere data dal governo o dal Parlamento, non dall'ente che finisce per essere beneficiario in termini indiretti e impropri per evoluzione ordinamentale di quell'imposta stessa, visto che il canone RAI diventa in realtà la maniera abolito com'era, è diventato tassa di possesso. Sono assolutamente d'accordo. Quindi in termini giuridici, altrimenti se noi ci fidiamo di un'interpretazione della RAI, domani un'articolazione periferica dell'Agenzia delle Entrate legittimamente può avere un'interpretazione diversa, e se tu non paghi a fronte di una cosa della RAI ti trovi che devi comunque pagare e poi trovarti a dover fare l'impugnativa ex post e il contenzioso. Il rischio è questo dal punto di vista di come funziona il nostro ordinamento, no? Sui principi, se non che poi aggiungo alcuni particolari, così non accade perché un'associazione di consumatori, l'ADUC, chiese anni fa un'interpretazione in merito all'Agenzia delle Entrate per sapere se il canone speciale fosse dovuto o meno per alcune tipologie. Infatti meritoriamente va detto e fa bene, perché mi sta richiamando al mio dovere, l'ha richiesto più volte dal 2006 in avanti, 2006, 2007, 2008. Ok, però la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'ADUC ha creato, secondo me, una situazione di impasse. Perché? Perché la risposta è stata una sorta di rimbalzo delle competenze. Cioè l'Agenzia ha detto, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 2002, che sì, il canone speciale è dovuto e c'è un'interpretazione che per la quale non si rimanda a un ente particolare. Parla comunque di una sorta di interpretazione della legge aperta. E addirittura dà anche un giudizio, perché dice che non è irragionevole che la scelta legislativa sia stata nel senso della discrezionalità, forse perché chiaramente si appella ad una, come si può dire, visione del progresso che consentirebbe, in effetti così è stato, che l'apparecchio adattabile si possa spingere fino a tutti quei ritrovati della tecnica che ci sono e ci saranno. No, a quel punto si può applicare, per esempio, con quella interpretazione, voglio dire, state attenti perché anche la PlayStation dei figli di chi ha casa, a qualsiasi apparato, un tablet, uno smartphone, qualunque assolutamente cosa. Sì, assolutamente sì, però concludendo, volevo dire, la richiesta dell'ADUC all'Agenzia delle Entrate si chiude con una risposta da parte dell'Agenzia che fa rimbalzare la competenza a individuare le tipologie di apparecchi adattabili in capo al Ministero delle Comunicazioni, oggi Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma la nostra organizzazione nel mese di ottobre scorso ha proposto proprio in merito un quesito alla direzione del dottor Leone proprio presso il Dipartimento delle Comunicazioni. A quella nostra domanda non c'è stata una risposta. Pochi giorni fa, alla luce delle migliaia di lettere che sono arrivate ai nostri associati, abbiamo riproposto la domanda e ancora oggi una risposta non c'è stata data. Ma per le vie brevi, telefonicamente, la risposta che c'è stata data ci ha fatto comprendere che l'imbarazzo, insomma, la difficoltà in cui versa quel dipartimento, perché una loro risposta in termini di circolare interpretativa sarebbe ovviamente restrittiva e potrebbe creare delle pericolose per l'ente RAI ovviamente disposizioni interne per le quali poi dopo il soggetto che ha deciso, che ha dato una certa interpretazione, potrebbe anche essere chiamato ci va di mezzo. Ma infatti questo a maggior come ragione capisce, è praticamente impossibile venirne fuori. Deve essere il governo e l'Agenzia delle Entrate, perché altrimenti figuriamoci, nessuno in RAI rinuncerebbe volentieri a risorse aggiuntive per vista la situazione anche contabile, e quindi figuriamoci. Quindi l'interlocutore secondo me più proprio è quello. Io ringrazio anche Giuseppe Dell'Aquila. Intanto adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo con altri rappresentanti di associazioni e categorie e anche con qualche voce della politica, perché la politica su questo si è mobilitata trasversalmente, e soprattutto poi con le vostre telefonate. Eccoci tornati qua in studio, ci stiamo occupando della campagna di richieste di pagamento di canone RAI applicato su tutti gli schermi e i PC applicati negli studi professionali, nelle piccole aziende, artigiani, commercianti, professionisti, medici, veterinari, ingegneri, architetti. Sono in queste settimane arrivate a raffica le richieste di pagamento per gli schermi che si utilizzano per lavoro. Il nostro motto è: non pagherai sul PC con cui lavori. Però stiamo chiedendo ai rappresentanti delle categorie come intendono organizzare la protesta. Ricordiamo che si tratta di un'interpretazione estensiva dell'articolo del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938 numero 246 sugli apparecchi atti o adattabili alla ricezione del radioaudizioni. Non è intervenuta un'innovazione legislativa, né è stato comunicato ai contribuenti una interpretazione autentica che può venire solo dall'Agenzia delle Entrate, poiché si tratta di una norma di carattere generale. Non deve e non può essere la RAI a mettere becco sull'estensione e l'applicazione di una fattispecie normativa. E abbiamo sentito alcune proposte di come organizzare una campagna che, naturalmente, poiché stiamo delicatamente lambendo il terreno di una disobbedienza civile, bisogna essere sinceri, può esporre poi a delle conseguenze tutti coloro che insieme la organizzano. Quindi bisogna prima pensare a una protesta collettiva per avere delle risposte impegnative da parte del governo o e del Parlamento. Secondo, immaginare a forme collettive di interpello, innanzitutto, per sbloccare la situazione. Terzo, da quel momento in poi, eventuali organizzazioni collettive di disobbedienza civile rispetto a inadempimenti comunicati esplicitamente e motivati può essere una risorsa. Quello che naturalmente noi non stiamo immaginando è che si tratti semplicemente di una questione alla quale si può individualmente rispondere non pagando e basta l'anonimato, perché così si diventa evasori, e qui la questione non è quella. La questione è quella di dire no a un'interpretazione inusitata e del tutto anomala, che naturalmente domani potrebbe essere estesa a qualunque smartphone, a qualunque tablet, alle piattaforme con cui i vostri figli giocano e che sono collegate a un server, sono atte a ricevere la televisione anch'esse, e così via. Allora, sentiamo un pochino di ascoltatori, ma prima degli ascoltatori suggerirei di ascoltare la voce di Vincenzo Vita, che è un senatore del PD e componente della commissione di vigilanza della RAI, ha avuto incarichi di governo, lo ricordiamo tutti, quando era centrosinistra a governare. Ecco, senatore Vita, secondo lei come si può affrontare e come si può venire a capo di questa delicata questione? Ma lei ha detto molto bene, devo dire, ha spiegato con cura di cosa stiamo parlando. È un errore, è un'interpretazione burocratica e davvero eccessiva che ha dato impropriamente la RAI. Lei ha spiegato appunto che siamo in materia di tasse e quindi non è una singola azienda che fa l'interpretazione autentica come se fosse la Corte di Cassazione. E dunque, cosa fare? Ho qui sotto gli occhi una bella interrogazione parlamentare con il collega Sangalli e la mia firma e quella di tanti altri colleghi, e poi c'è una lettera rivolta al Presidente della Vigilanza RAI, Sergio Zavoli, con i colleghi capogruppo Morri, Vigilanza, senatore Di Mercati e altri. Entrambe queste due iniziative parlamentari hanno uno scopo chiaro, e cioè far sì che in una sede ufficiale, in modo che possa rimanere agli atti, il governo e la RAI rispondano di questa incongruenza. Aggiungo alle belle considerazioni che lei ha fatto, perché erano molto chiare, una, io credo, ulteriormente dirimente, e cioè se è vero che la Corte Costituzionale e che la Corte di Cassazione hanno ribadito più volte che si tratta appunto di una tassa, cioè uno non paga il canone RAI solo perché guarda la televisione, no, paga il canone perché ha l'apparecchio televisivo. Allora, in materia fiscale, come è noto appunto la giurisprudenza in questo è costante, è molto specifica la norma, cioè non può essere che all'improvviso, siccome un cellulare può prendere anche le immagini televisive, uno paga il canone RAI sul cellulare. Per di più, poi questa nota mandata dalla RAI a diversi studi professionali e quant'altro, sembra anche un po' una iniziativa incongrua sotto il profilo delle forme, con tanto di spot mandato nelle reti RAI anche la sera di Sanremo con evidenza, perché prima di tutto andava fatto quel chiarimento con la stessa Agenzia delle Entrate. Io ho sotto gli occhi delle date cui si era già rivolta l'associazione dei consumatori, insomma, il mondo dei consumatori sono già rivolte alle Agenzie delle Entrate già nel 2008 per un chiarimento che non era qui arrivato, e quindi si dice proprio un'interrogazione, vogliamo sapere cosa vuol fare il governo, perché il governo non può rimanere inerte rispetto ad un eccesso di zelo dell'azienda radiotelevisiva pubblica, e quali provvedimenti perché si ritirino da parte della RAI queste lettere impropriamente inviate a persone che non devono pagare il canone RAI. Piuttosto la RAI si occupi dell'evasione, l'evasione del canone, quello per la televisione classica è tantissima in Italia, perché la RAI non si occupa di quello invece di fare ulteriori estensioni di un balzello che così rischia di non essere più pagato, no? Perché lei prima ha detto è l'evasione, ma sa, quando diventa un balzello un po' sgradevole, poi l'evasione sconfina con una modifica normativa. Vuole la RAI che prima o poi qualcuno si alzi e dica aboliamo il canone? Io sarei stato sempre contrario a questa ipotesi, le ha ricordato quando ero sottosegretario, anche quando ogni tanto un leghista si alza e dice via il canone, io dico no, il canone va pagato, però con giudizio, no? Diceva Manzoni. No, anche perché se diventa appunto una specie di fisarmonica che di volta in volta si allarga e si stringe senza che si capisca chi sia titolare del diritto, è la classica forma di fronte alla quale una forma impositiva nell'evoluzione degli ordinamenti viene avvertita come impropria, quando diventa ingiusta nella sensibilità di coloro ai quali si rivolge, è la rottura del patto fiscale. Da sempre funziona così, che a quel punto decade la credibilità e decade quella che invece dovrebbe essere uno degli obiettivi attraverso cui funzionano tutti gli ordinamenti, cioè l'adesione spontanea alla richiesta di un ordinamento in quanto riconosciuto fondamentalmente giusta in cambio o di una prestazione di un servizio diretto, nel caso delle tasse è così, o comunque perché con la fiscalità generale uno ha l'idea che le cose funzionino meglio per gli obiettivi di redistribuzione e di offerta generale dei servizi. Quando siamo di fronte a una pretesa che varia nel tempo con una procedura che niente ha a che vedere con la chiarezza, la trasparenza, la pubblicità, che deve essere alcuni dei fondamenti di che cos'è un processo naturalmente legislativo, soprattutto in materia delicatissima come quella fiscale, è ovvio che il cittadino si gratta la testa e dice, ma io con chi ho a che fare? Una banda di rapinatori, perché poi questo è il criterio del rapinatore, quello che ti trovi di fronte a una sorpresa nell'esazione, con la sproporzionata ovviamente violenza, perché la forza poi del diritto è la forza naturalmente dello stato di eccezione che ti viene rivolta, e tu stai lì nel tuo studio, veterinari, medici eccetera, ti vedi arrivare questa roba e dici cacchio, adesso mi arrivano addosso la domanda che mi pongo io è: su tutti gli schermi dell'agenzia delle entrate stanno pagando il canone? Che cosa fa la RAI? Paga il canone a se stessa per il numero di computer che ha attaccato nelle redazioni? No, perché a questo punto, perdonate, per chiunque artigiano e commerciante si vede applicata questa cosa, legittimamente si pone innanzitutto questa stessa domanda. Sentiamo un po' di ascoltatori. Io ringrazio Vincenzo Vitta per le riflessioni pacate che ha fatto, però il giudizio è stato netto, come si vede. Sentiamo Roberto da Livorno. Prego Roberto. Sì, Giannino, buongiorno. Buongiorno. Vada. Anche a essere folli, stavo pensando, e volendo ridurre il numero dei monitor, non dei computer in azienda, ma dei monitor, poi cosa facciamo? Lavoriamo a turno? Facciamo mezz'ora io, mezz'ora l'impiegata, mezz'ora il tecnico? E poi, per aziende, nel mio caso, che hanno dei computer all in one, quindi che comprendono il monitor collegato direttamente al computer, cosa facciamo? Diminuiamo il numero delle macchine? Ma Roberto, lei si rende conto che noi dovremmo vivere il moltiplicatore digitale come uno dei drive della crescita, dei sentieri da percorrere con più decisione per gli investimenti in ICT, sono una delle cose attraverso le quali innalzare la nostra produttività. Lei giustamente, però, mi sta dicendo, io li devo ridurre allora il numero di computer nella mia impresa. Altro effetto paradossalissimo ma concreto. Io ringrazio Roberto che ci ha fatto riflettere a un altro bell'incentivo alla digitalizzazione e alla crescita di produttività del nostro paese. No, io sono serenamente convinto che si tratti di Passera, di Monti, di Grilli, preghiera a Tilio Befera, il capo dell'Agenzia delle Entrate, che spesso interloquisce molto cortesemente con noi, ma insomma c'è bisogno di un chiarimento su questo, perché altrimenti l'effetto che si ottiene è concentrico fisicamente, come quando si butta una pietra in uno stagno, di non solo di complicazione, ma di sgomento nel mondo della piccola impresa dei professionisti italiani. Questo non serve né alla RAI, né al servizio pubblico, né allo Stato, nella sua credibilità fiscale, e tantomeno poi a incentivare la digitalizzazione. Al contrario, qua sembra che lo Stato oramai chieda soldi su ogni cosa da questo punto di vista. Oggi ripartono i Doors, perché This Is The End stavolta non si applica solo all'eurocontesto, ma anche alle norme un po' singolari delle pretese fiscali talvolta del nostro paese. Allora, senatore Vita, possiamo contare da questo punto di vista sull'impegno suo di altri parlamentari? Anche altri partiti hanno visto delle iniziative, però secondo me i tempi rapidi per questa chiarezza di questo interpello devono essere fondamentali, se no si crea una confusione. Guardi, direi subito, anzi io mi auguro qualche ottimismo, sai, residuo ancora, che la RAI stessa si senta in obbligo di chiarire un pasticcio che ha combinato. Poi voglio solo dire due cose flash. La prima, che il regio decreto di riferimento è del 1938. Già. Ora, tutti noi possiamo immaginare cosa è successo nel frattempo, a parte la guerra mondiale, ma insomma, nelle tecnologie. E ancora, se il governo lancia bene l'agenda digitale, e uno degli obiettivi è quello di superare quella retratezza tecnologica in cui ancora l'Italia versa, ma questo non è esattamente il contrario? Sì, esattamente, sì, sono totalmente d'accordo, e naturalmente informeremo tutti i nostri ascoltatori, la platea di imprese e professionisti, di quello che la politica riuscirà a fare per mettere uno stop a questa spirale. Sentiamo Barbara come la pensa. Grazie quindi al senatore Vita. Barbara da Roma, prego Barbara. Buongiorno dottor Giannino, io estendo un pochettino, perché non è riferito unicamente al canone. Mia mamma è agente di vendita a domicilio e il 31 dicembre le è arrivata una cartella da 25.000 euro per mancato pagamento IRPEF, per cui loro sono esenti. La dottoressa che gestisce la cartella ha chiaramente evidenziato che effettivamente c'era stato un errore, dopodiché ha informalmente detto alla commercialista che in vacanza legale, per cui mancando una normativa ben specifica per quella tipologia di contratto, mia mamma avrebbe dovuto pagare il 50% dell'IVA dell'automobile con cui lavora, perché concettualmente sicuramente mia mamma avrebbe usato la macchina anche per, non solo per lavorare. Al che la questione è, ma l'interpretazione, perché le ha detto noi interpretiamo in questo modo la norma, detto che agenti di commercio, esattamente come mamma della stessa azienda, in zone diverse d'Italia, la cosa è stata gestita in maniera diversa a seconda dell'Agenzia delle Entrate che ha gestito la pratica. Allora la domanda è, l'interpretazione della norma in capo all'Agenzia delle Entrate, e soprattutto non dovrebbe essere univoca, oppure a seconda dell'Agenzia delle Entrate che gestisce il caso viene interpretata diversamente? Barbara, lei pone un problema che è un'altra pietra miliare della evoluzione in termini negativi del nostro ordinamento fiscale negli anni e via via nei decenni, man mano che si sono fatte più complesse le fattispecie, le normative e la mole di provvedimenti attuativi della norma, perché lei sa che noi inseguiamo oramai centinaia e centinaia di pagine produzione come fonte normativa, che non ha niente a che vedere con la riserva stretta di legge posta all'articolo 23 della Costituzione, ma qui stiamo parlando di fonte amministrativa. Sì, purtroppo è esattamente l'Agenzia delle Entrate nelle sue emanazioni territoriali ad avere anche interpretazioni divergenti di fattispecie omologhe. Questa è una realtà duramente, difficilmente accettabile della mancanza di civiltà del nostro ordinamento fiscale. Per questo, secondo me, bisogna iniziare a organizzarsi. Allora, abbiamo ancora Fiorenzo dalla provincia di Treviso. Prego Fiorenzo. Buongiorno Giannino, buongiorno a lei e a tutti. Io l'ho chiamata per il mio caso, no? Così tanto per commentare, no? Io non posseggo né TV né computer, non posseggo niente di tutto questo. Mi è arrivata 400 e tanti euro da pagare. Naturalmente non li pago, non c'è un problema. Ma le è arrivata come mai? Non lo so. Perché respira, ecco, cioè ormai lo stato. Molto probabilmente sì. Perché respira in vita. Io ho una partita IVA. Ecco. Ah, è una lavoro partita IVA. Improprio. Ah, beh, lavora in proprio. Ma vede che quante fattispecie pericolose. Una partita IVA e lavora in proprio. Beh, praticamente lei è un evasore nato con i criteri con i quali a volte ci troviamo a che fare. Fiorenzo, naturalmente io non posso dirle non paghi e stia tranquillo e sereno. Il problema è che se non si rientra in forme collettive organizzate e dichiarate pubblicamente, lo Stato poi gliela fa pagare. Questo io l'avviso. Tentiamo di evitarlo. Non pagherai per lo schermo con cui lavoro. No allo Stato. Ladro, ladro, ladro. A domani.